In questa parasha noi leggiamo del probabilmente quello che è considerato per noi, e forse obiettivamente, sicuramente obiettivamente, il momento più importante della storia, il momento che si aprono i cieli, il momento in cui avviene il dono della Torah. Il dono della Torah non è solamente il dono della Torah, è un messaggio dal divino alla creazione, all'umanità, a tutto ciò che esiste, sentito in quel momento da tutta l'esistenza. Ed è chiaro che questo è l'evento chiave, non solamente di questa parasha, ma di tutta la Torah, il dono della Torah, la descrizione del momento del Monte Sinai, del dono della Torah. Tuttavia, il nome della parasha non è questo, il nome della parasha è Yitro. Buonasera, benvenuti. Ciao. Buonasera, piacere. Arturo. Piacere, piacere, benvenuti. Ciao. Buonasera. Ciao. Accomodatevi, se volete una fotocopia. Grazie. Che si discute stasera? Allora, stiamo parlando della parasha, stavamo dicendo che la parasha si chiama Yitro. È il nome della parasha, nonostante la parasha parlasse del dono della Torah. Il dono della Torah è l'evento più centrale di tutta la Torah. Invece la nostra parasha, invece di essere chiamata la parasha del Sinai, la parasha del dono della Torah, la parasha dei 10 comandamenti, nulla di tutto ciò. La parasha di Yitro. Yitro era un ospite che è arrivato da lontano, era il suocero di Mosè, il suo titolo era Kohen Midian, il sacerdote del luogo che si chiama Midian, ed è arrivato per esprimere la sua gratitudine e l'apprezzamento di quanto erano questi grandi miracoli che erano avvenuti con tutta la storia dell'uscita dall'Egitto. E addirittura questo ebbe un effetto così forte su di lui, sulla sua persona, che decise di unirsi a questo popolo. Che Yitro, i maestri ci insegnano nella tradizione, divenne un ebreo, si convertì all'ebraismo in quei momenti. Bene, questa è una bellissima storia, ma quale è più importante, quella o quella del dono della Torah? Forse quella del dono della Torah, ma il nome della parasha è il nome di Yitro, non è il nome del dono della Torah. È vero che i nomi della Torah non sono delle parashiot non sono scritte sulla Torah, non è che c'è un titolo nel Sefer che dice questa parasha si chiama così e questa parasha si chiama così. È chiaro che sono attribuite dalla tradizione, ma anche questo è importante capire la dinamica o il messaggio profondo che c'è in questo, perché già una cosa che è trasmessa dalla tradizione ha la sua validità. In particolare ci sono dei maestri che dicono, nello specifico riguardo i nomi della parashiot, che il nome della parasha in qualche maniera rispecchia tutto ciò che è il messaggio della parasha. Allora ci chiediamo, alla luce di questo, perché il nome Yitro rispecchia più la parasha che il tema del dono della Torah. Allora, nella fonte numero 1, voi vedete che qui è citato Likutei Sichot, una delle opere del Rebbe di Lubavitch, in cui dice così: Beparashat Yitro, nella parasha di Yitro, Mesupar si racconta riguardo Matan Torah, il dono della Torah. Eruah, un evento, Shehu Hashuv, Arbe Yoter, che è molto più importante, Meinyan Yitro, di tutta la storia di Yitro. Ubechol Zot, tuttavia, la parasha si chiama, come si chiama? La parasha Nikret Rak Bishmo shel Yitro, solo col nome di Yitro, esattamente come dicevamo. Velo Bekinui Shemevatet Maalat Matan Torah, e non con qualche tipo di titolo o di nome che esprime la grandezza dell'evento del dono della Torah, come per esempio la settimana scorsa, che molle Mashal, Parashat Shavua Sheavar, ovvero la parasha della settimana passata, che si chiama Beshalach, si chiama anche, a parte che Beshalach è un riferimento già all'uscita degli ebrei dall'Egitto, Beshalach, quando furono mandati fuori dall'Egitto, ma anche lo Shabbat ha un nome, come dicevamo anche Shabbat, ne abbiamo parlato, Shemechune Shabbat Shira, lo chiamiamo Shabbat Shira, lo Shabbat della cantica, perché è lo Shabbat in cui leggiamo la cantica del mare, e tutto lo Shabbat assume questo nome. Forse lo Shabbat è il dono della Torah, dovrebbe assumere il nome Shabbat Matan Torah o una cosa simile, anche se non è il nome della parasha. Mikach Muvan, il Rebbe scrive che in base a questo, Sheinyano Shel Yitro, sembrerebbe da questo punto di vista che ciò che è rappresentato dal concetto, dall'idea di Yitro, dalla storia di Yitro, Uchashuv Beyoter, è molto importante. Il mod mimenu horaot e ha in sé delle istruzioni, delle lezioni che noi possiamo trarre le gabei matan Torah, addirittura anche rispetto a come vedere il dono della Torah, perché visto che il dono della Torah è incluso in questa parasha sotto il titolo Yitro, il titolo Yitro quindi è applicato anche al dono della Torah in un certo senso, il nome Yitro, il concetto, l'idea rappresentata da Yitro può gettare luce anche su come noi vediamo addirittura il dono della Torah. Questa è una cosa molto strana, dobbiamo approfondire. In effetti, il nome, il Zohar nella nostra parasha, scrive, scritto nel Zohar, che tutto ciò che è successo al momento del dono della Torah, in qualche maniera è grazie alla venuta di Yitro. Se Yitro non fosse venuto, forse la Torah ancora non sarebbe stata data. Com'è possibile? Cosa vuol dire? Innanzitutto il Zohar ci conferma questa idea, però dobbiamo capirla. E qui citato, è tradotto in ebraico dal Zohar, Sefer HaZohar Tchilat Parshatenu, all'inizio della nostra parasha, il Zohar dice, Lo nitena haTorah. La Torah non è stata data ad finché Leachar Sheba Yitro. Dopo che arrivò, venne Yitro, vehodà veamar, e ammise e disse, attaia dati, ora riconosco, ora so, chi gadol Hashem mikol Elohim, che il Signore è più grande da tutti gli dèi, tutte le forze, baruch Hashem, benedetto sia il Signore, asher hitzil etchem, che vi ha salvati, Miyad Mitzrayim, dalla mano degli egizi. Questo è Yitro che lo dice. Esattamente. Dopo che Yitro ha detto questo, az itpashet kvodo shel HaKadosh Baruch Hu, lemala ulemata. Il Zohar dice, la base, il libro base della Kabbalah, dice che solo dopo che Yitro affermò queste cose, fece queste affermazioni, allora la gloria di HaKadosh Baruch Hu si rivelò sia in alto che in basso. E dopo di ciò, ve'achar kach, Natan Hashem et HaTorah bishle muta. A quel punto il Signore diede la Torah nella sua interità. E ovviamente questo è quanto noi dovremmo cercare di approfondire e di capire. Perché Yitro è arrivato già dopo che il faraone è stato sconfitto. E il suo esercito è rimasto dentro al mare. Anche Amalek, che si è messo in una campagna militare di attacco, di sorpresa contro Am Israel, poco dopo che sono usciti dall'Egitto, è stato sconfitto. Tutti hanno visto la grandezza di HaKadosh Baruch Hu, tutti i popoli, tutti, chiunque stava intorno, a quel punto ha detto... qualcosa di speciale sta accadendo. Quindi non è che era solamente Yitro che ha riconosciuto questo. Allora cosa c'è in più adesso che lo dice Yitro? Ora possiamo dare la Torah. Che vuol dire? Potrebbe essere che Yitro nel suo profondo potrebbe essere un tzaddik. Sì, potrebbe essere. Ora approfondiamo anche questo. Il profilo di Yitro forse si Sì, richiama cioè Etro come a però era lo qualche all'interiorità del Sadiq popolo Shadas Baruch ebraico. che aveva mandato, penso io, Bene, penso. bene, vediamo, sono tutte cose valide. Vediamo un po' le fonti cosa dicono. La prima cosa che, di cui si occupano i commentatori, Rashi per primo, ma anche gli altri commentatori, e i Chachamim nel corso delle generazioni, quello che li disturba a loro è: cosa è successo ora che Itro è venuto proprio adesso? Espresso nelle parole di Rashi, ma shemua shama uba. Qual è la cosa che ha sentito ed è venuto? Perché dice qual è la cosa che ha sentito? Perché la Torah dice vaishma Yitro, e Yitro sentì tutto ciò che accadde e venne. Qual è la cosa che fece sì che lui dicesse ok, ora vado? Cos'è che è successo esattamente che lo ha spinto ad arrivare proprio in quel momento? Tutte le piaghe, Yitro non si è mosso. L'apertura del mare, Yitro non si è mosso ancora. Cos'è che l'ha portato ad arrivare in questo momento? Allora, che doveva ricevere No, la la Torah Torah. ancora non è stata data. L'ultima cosa successa era la vittoria su Amalek. No. Sono stati dati i primi due comandamenti. No. Ci stava qualche cosa, La fulmine, parasha chiude con la buoni. vittoria di Amalek. Quello quando è andato Lui Torah. già aveva detto la grandezza di Kadosh Baruch Hu, però, dicono. Perciò stiamo parlando prima del vitello d'oro, stiamo parlando prima di tutto. Allora, due delle cose che abbiamo detto sono indicate da Rashi come quelle due co come le cose che hanno fatto sì che Itro decidesse di venire. Rashi dice: Kriyat Yamsuf u Milchemet Amalek, l'apertura del mare e la guerra di Amalek. Queste sono due cose specifiche. Per l'apertura del mare ci possiamo stare, è una cosa senza precedenti, un grandissimo miracolo evidente a tutti. Allora questo sì, possiamo dire anche nella cantica stessa, noi diciamo Shameu Amim Yirgazun Chil Achaz Yoshev Pelashet, ovvero tutti i popoli quando hanno sentito questo si sono, diciamo, Paurito, spaventati, sono impauriti, paurito. hanno tremato. Ok? E non solo, anche 40 anni dopo, quando già Mosè era morto e Yoshua stava preparando la conquista di Israele, in particolare nella storia della conquista di Gerico, quando si incontra con quella famosa donna Rahav, che poi lui sposò secondo la tradizione, cosa dice Rahav alle persone inviate da Yoshua, gli esploratori, le spie inviate da Yoshua? Abbiamo sentito ciò che è accaduto al mare, che il Signore fece diventare asciutto il mare per voi. 40 anni prima, ancora avevano paura. Era 40 anni dopo. successo 40 anni Ancora prima e dopo 40 anni ancora avevano paura. c'erano paura. Ok, però la guerra di Amalek, cioè la grande cosa, il miracolo del mare, posso capire che fa sì che una persona si dica, ok, vado lì a vedere un po', approfondire questa cosa, forse anch'io mi unisco a loro. Ma la guerra di Amalek, perché dovrebbe essere la guerra di Amalek un motivo di venire ed unirsi ad Am Israel, fare il Giur, convertirsi all'ebraismo? Secondo i nostri maestri, la guerra di Amalek è accaduta in un momento in cui il popolo ebraico era debole non solamente a livello materiale, soprattutto a livello spirituale. Era come se si fosse aperta una breccia nel loro forte spirito, dal punto di vista del loro attaccamento. C'è scritto che anche il nome del luogo in cui la Torah dice è avvenuta questa cosa, Refidim, allude a questo rifion, cioè debolezza. Rafuye dehemmi divrei Torah. Si sono indeboliti rispetto alla Torah, rispetto a quello che dovevano fare. Allora, se questo era un tipo di conseguenza, una punizione per come si sono comportati, per le loro lamentele, per l'acqua, per qui, per lì, che si sono chiesti, Hayesh Hashem bekirbenu im ain, il Signore è qui presente tra di noi o forse non lo è? Hanno messo in dubbio tutto. Allora, questo era il motivo di questa guerra, secondo i Chachamim. E non solo, era anche una guerra. Sì, alla fine è stato sconfitto Amalek, ma non era così semplice. Inizialmente ci sono state tante perdite, anche nell'Am Israel. E durante il combattimento c'erano momenti in cui Amalek aveva la mano forte, c'erano momenti in cui Israele aveva la mano forte, cioè non era una cosa così semplice e lineare come può sembrare. Allora perché questa cosa, che in realtà indica la debolezza di Am Israel, era invece, secondo Rashi, come Rashi cita i maestri, un motivo per cui Yitro decise di unirsi ad Am Israel, uno dei due motivi. Primo lo possiamo capire, il secondo è un po' più complicato, secondo questa visione. Perché io penso che Yitro aveva la forza materiale, cioè fisica di Amalek, e vedendo che Am Israel ha sconfitto Amalek, allora ha detto che Kadosh Baruch Hu è grande allora. Ok, bene. Penso, Bene, però già dall'apertura del mare può capire che Akadosh Baruch Hu è grande. Sì, giusto? No, io... Cioè, cosa gli si aggiunge? Nel senso che ha fatto l'uno e ha fatto l'altro, allora... Sembrerebbe che la percezione, la prospettiva che aveva Yitro era... non quella di un semplice giornalista che viene e dice ho visto una cosa interessante, vengo a prendere lo scoop e vedere cosa succede. C'è action, arrivo anche io. Non è questo. Sembrerebbe che Yitro ha capito qualcosa di Am Israel, del popolo ebraico, che forse ancora non era stato capito bene, e che quella sua prospettiva era importante per i nostri maestri, per i nostri avi, che sia sentita, che sia chiara, anche e forse soprattutto in un momento di difficoltà, come era quel momento della guerra di Amalek, che indicava un attimo di dubbio, di problema, anche nel rapporto con Akadosh Baruch Hu. E quindi senza superare quel momento, sarebbe stato difficile arrivare al dono della Torah. E se Yitro ha aiutato a superare quel momento in qualche maniera, come vedremo, vuol dire che il dono della Torah è anche grazie a Yitro. Allora, cosa era, secondo le varie molte fonti che abbiamo riguardo Yitro, nel suo carattere, qual era la cosa particolare, speciale, importante del carattere di Yitro, del tipo di persona che lui era? I maestri dicono che Yitro aveva provato tutte le idolatrie. Allora è chiaro, dice, ah, questo qui è proprio esagerato, vuoi fare un'idolatria? Va bene, posso capire, ma le devi fare proprio tutte. No, questo cosa indica? Questo indica che lui cercava qualcosa. Non è che giocava... Che le altre cose non le aveva trovate. Esattamente. E quindi continuava a cercare finché aveva trovato. Esattamente, quindi lui cercava la verità, cercava qualcosa di autentico. Questa era la caratteristica, un tratto caratteriale importante di Yitro. E non solo cercava, era pronto ad agire in base a questa ricerca. Se c'era lì qualcosa da trovare, da forse che sarebbe stato qualcosa un po' di verità, l'andava a cercare, anche se richiedeva un sacrificio, anche se richiedeva un impegno, anche se richiedeva una difficoltà. Era pronto a farlo. E questo è un tratto caratteriale molto importante e positivo di per sé. Non per dire che ogni cosa che ha fatto era positiva, ma il tipo di carattere di questo approccio, tipo, questo approccio, è un approccio che indica qualcosa di particolare nel senso positivo nella persona. E torniamo indietro ai primi momenti in cui nei Midrashim troviamo la presenza di Yitro e lo ricordava prima Yosef, quando ancora stava presso il faraone. Lì troviamo, all'inizio del libro di Shemot, che la Torah racconta come il faraone e i suoi consiglieri erano molto preoccupati della prolifica moltiplicazione del popolo ebraico, queste persone che non appartenevano a quella, diciamo così, era un'altra etnia. E la Torah esprime questa cosa e dice che proprio il faraone ha detto: cerchiamo, hava nitchakema lo, troviamo un modo intelligente, furbo per avere la mano forte, perché un domani loro potrebbero essere ancora più numerosi di noi e potrebbe mettersi contro di noi, eccetera, eccetera. Il Midrash racconta che c'erano tre consiglieri importanti con i quali Faraone si consultò in quei momenti. Amar Rabbi Chia, vedete il numero 2 qui citato, Shemot Rabbah, il Midrash Rabbah su Shemot, Vayomer Elamo, questo cita quanto dice la Torah, disse il faraone al suo popolo, Hava nitchakemallo, appunto quello che citavo prima, Amar Rabbi Chia, disse Rabbi Chia, Shelosha hayu be'ota etza shel paro. C'erano tre che erano stati convocati a consigliare il faraone in quel momento. Bilam, uno era Bilam, che incontreremo molto più avanti nella Torah. Zero, c'era niente. Uno era Iov, Giobbe, e uno era Yitro. Ora c'è scritto Bilam ya'atz et ha'etza, colui che diede il consiglio che fu poi seguito, quindi quello di fare il decreto di mandare nel Nilo i bambini maschi e tutte le altre cose negative. Questo chi lo diede? Il consiglio fu di Bilam. E la sua fine fu che fu ucciso. Venerang fu ucciso molto più avanti nella guerra con Midian, che gli ebrei fecero una guerra con Midian alla fine della loro permanenza nel deserto, prima di entrare in Eretz Israele. Iov, Giobbe, Shatak rimase in silenzio. Non disse né un consiglio negativo, ma neanche qualcosa di positivo. E Nidon Bisurim, la sua fine fu di essere giudicato, di dover passare attraverso grandi sofferenze, la famosa storia di Giobbe. Yitro, invece Yitro, Barach, fuggì. Ora vediamo perché fuggì. Fuggì, vezachah sheyeshvu banav besanedrin hagdolah b'lishkat hazit b'Yerushalayim, e meritò che dalla sua discendenza uscirono fuori addirittura delle persone che fecero parte del Sinedrio a Gerusalemme. Grazie. Nella parentesi citiamo un altro Midrash che dice cosa disse Yitro. Yalkut Me'amloez disse così: Eshiv Yitro le farò. Yitro disse al faraone: Salute. Lui ishma Adoni ha-melech la'atzati. Se il re ascoltasse il mio consiglio, lo ya'asera ali bnei Israel. Non faccia nessun male al popolo ebraico, che Elohim bachar bahem, perché il Signore scelse loro, yoter mikol umot haolam, da tutti i popoli del mondo, v'chol melech shepagah b'avotem, e qualsiasi re, qualsiasi leader che se la prese, diciamo così, con i loro avi, orer et nikmat Elohim, fece risvegliare l'ira del loro Dio, come il faraone, l'altro faraone, con Avraham, quando Avraham disse Sarai mia sorella, tutta quella storia, e Avimelech, una storia simile con Avimelech, Shelakhu et Sarah ve Rivka, mi dea Avraham Yitzchak, che presero la moglie di Avraham o la moglie di Yitzchak dal loro marito, e poi hanno subito delle forti conseguenze. Nechelu miad bemachalot koshot. E quando il faraone sentì queste parole di Itro, che gli disse: non ti conviene prendertela con queste persone, il faraone si arrabbiò con lui. Farò i trages li meshmadvarim, ace Itro aya nus livroch le midian. Finché a quel punto Itro doveva proprio fuggire, perché sennò sarebbe stato per lui pericoloso rimanere lì. Da lì che Itro, dice il Midrash, fuggì verso la terra di Midian. Allora, se volessimo definire questi tre consiglieri in termini un po' più moderni, potremmo dire che Bilam era un vero politico, grazie mille. Era un vero politico, che l'usanza è rimasta anche oggi, la maggior parte dei politici sono così, ovvero che dicono al loro capo quello che lui vuole sentire. Dicono a ognuno quello che vuole sentire, diciamo così. Anche se poi la conseguenza di questo dire, di questo consiglio, può essere genocidio, può essere chissà le peggiori cose. Comunque loro questo dicono. Iov, quello che rimase in silenzio, è quel consigliere che ha paura. Ha paura, da una parte non vuole far parte di qualcosa di terribile, non si vuole esporre in quel senso, ma neanche vuole esporsi dall'altra parte, non prende posizione, appunto, rimane lì, si astiene. Ma perché Davigo quello? Itro è l'unico in quella situazione che ha avuto il coraggio, che ha avuto il coraggio di non essere falso con se stesso, anche al costo di perdere la propria posizione, di rischiare tutto e di dover proprio fuggire da lì. Quindi già qui troviamo questo carattere di verità, di autenticità nel comportamento di Itro. Un altro aspetto dove lo vediamo, ed è questo già all'uso, questo è all'uso già nella Torah stessa. Sì. Amen. Amen. Moshe Rabbeinu, che è scappato dall'Egitto, vi ricordate? Sì. Ed è arrivato al pozzo nel paese di Midian, che era il paese di Itro, dopo che Itro già era lì. E la storia è molto strana come incontra Itro, perché chi incontra sul pozzo, vicino al pozzo, le figlie di Itro, che portano il gregge di Itro, e dice: scusa, perché non prendete l'acqua? No, perché gli altri pastori non danno il permesso alle figlie di Itro di prendere l'acqua, e devono battersi ogni volta per avere l'acqua per il loro gregge. Scusa, lui è Kohen Midian, lui è il papa di Midian, è il sacerdote del posto, com'è possibile che le sue figlie non possono agire in maniera libera? Anzi, sono discriminate in qualche maniera? Non ha senso. Allora il Midrash dice, da questo punto che il Midrash insegna, che lui era l'ex sacerdote. Che vuol dire l'ex sacerdote? Vuol dire, visto proprio che lui cercava la verità e andava da un culto ad un altro culto, vuol dire che lui è stato in Thailandia, è stato in India, è andato a trovare tutte le cose che c'erano da fare. E secondo voi perché andava da uno e poi andava dall'altro? Perché andava dall'altro? Perché nel primo non ha trovato la verità? Allora provava un altro. Come dicevamo prima, appunto. Allora di conseguenza è chiaro che la fede che vigeva nel luogo di Midian, ormai lui non la seguiva più. Era una pecora nera da tutte le parti. Allora è chiaro che discriminavano contro di lui e contro la sua famiglia. Il Midrash lo dice che lui era un sacerdote di un determinato tipo di culto estraneo, di culto idolatra, ma quando ha capito che non c'era niente di vero in quello, ha detto: Io vado a cercare un'altra cosa da fare. Ha tirato fuori tutte. Il Midrash racconta che lui ha tirato fuori tutti gli utensili, tutto quello che era usato in quel culto, e ha detto: prendete, fate quello che vi pare. Non, questo culto non ha una vera validità. Ha fatto una distribuzione. È bene che non l'hanno lapidato direttamente, Hai perché sennò capito? non ce Già l'avrei. era. È bravissimo. Già era un miracolo che non l'hanno ucciso sul posto, ma l'hanno scomunicato. Era una persona non grata, no? Hanno detto no, nessuno voleva essere il pastore del suo gregge. Ecco perché le sue figlie lo facevano. All'epoca non era normale che lo facessero le donne, anche se lo troviamo già con Rachele e Lea, ma anche lì Sì, era è una vero. situazione anomala, che non c'erano fratelli, eccetera. E quindi già un secondo momento in cui vediamo che Itro cercava la verità. Nella nostra parasha troviamo il terzo momento in cui Yitro, l'esempio in cui Yitro cercava la verità, e cioè che pur seguendo in qualche maniera la storia del popolo ebraico già da molto prima, quando Mosè era ancora piccolo, in Egitto, come abbiamo prima descritto dal Midrash, non gli era sufficiente seguire da lontano, ma addirittura era pronto a venire lì nel luogo in cui loro stavano e dire: Attaia dati, ora riconosco e so davvero che Hashem è il vero Dio. E Rashi dice quali erano le cose che lo spinsero fino alla fine di arrivare: l'apertura del mare e la guerra di Amalek. Amalek. E di nuovo vogliamo capire perché proprio queste due cose, in particolare la seconda delle due. Prima di spiegarlo, di arrivare a capirlo, c'è da fare un appunto. La Gemara discute nel Talmud per cercare di capire quale era in realtà questo momento esatto in cui arrivò effettivamente Yitro, che la nostra Torah descrive. Da una parte, come dicevamo all'inizio della lezione, sembra abbastanza evidente che lui arrivò prima del dono della Torah, perché cronologicamente è descritto così nella Torah, nella nostra parasha. D'altronde, nella Torah c'è scritto che lui viene a dove viene? Har ha-Elohim, al monte del Signore. Cos'è il monte del Signore? Har Sinai. E gli ebrei sono arrivati al monte Sinai poco poco prima del dono della Torah, non è che erano accampati lì per tanto tempo prima. Sono arrivati a Rosh Chodesh Sivan e la Torah è stata data il 6 di Sivan, 5 giorni, 6 giorni prima. Sembrerebbe da questo che Itro è arrivato dopo il dono della Torah, mentre stavano lì e la Torah era già stata data, Mosè aveva tempo di accogliere il suo suocero e fare tutto quel pasto che abbiamo detto, eccetera, eccetera, parlarci, essere consigliato da lui e così via. Effettivamente, eh sì, anche questa parte, quella di essere consigliato, cos'era il consiglio di Itro a Mosè? Ha sempre fatto il consigliere, prima del faraone e poi di Mosè. Ha detto: Mosè, scusa, non è giusto che tu stai Fai tutto il tutte e giorno a tre rispondere a tutte ah le sì, domande ha e fatto giudicare. divise, ha diviso a scompartimenti A tutta giudicare. Delega. delega, cioè. Delega. Crea delle situazioni, delle strutture dove tu puoi essere il capo generale, ma non entrare in tutti, nello Perché specifico di c'erano ogni tutte e singolo due problema. riunioni, mi sembra. Sì. Cosa stava dicendo Mosè se non quello che hanno capito già dal dono della Torah, no? In teoria. Quindi sembrerebbe che, infatti, questo suo arrivo è stato dopo il dono della Torah. Allora, nella Gemara noi troviamo una discussione su questo discorso, ci sono due opinioni. Troviamo nel trattato di Sevachim, un maestro dice Yitro è arrivato prima del dono della Torah e l'altro maestro dice Yitro è arrivato dopo il dono della Torah. Se avesse ragione la seconda opinione, che Yitro è arrivato dopo, allora vuol dire che la Torah esprime queste cose non nel senso cronologico in cui sono effettivamente avvenute, e sappiamo che in generale nella Torah esiste una regola che non tutto è espresso nell'ordine cronologico del effettivo evento. Perché però lo racconta prima la Torah? Uno dei commentatori, Ibn Ezra, dice perché la Torah vuole accostare l'arrivo di Itro alla guerra di Amalek, che è la fine della parasha scorsa, per dire, proprio per alludere che le due cose sono legate, come diceva Rashi. Ha visto la guerra di Amalek, allora è arrivato. Allora la Torah cambia l'ordine per indicare a noi che c'è un legame tra queste due cose. È vero che Itro è arrivato dopo, secondo questa opinione. Perché però lo racconto subito? Perché voglio dirti che il motivo per cui è arrivato è legato a questa guerra. Potrebbe Allora, di avere nuovo, ragione da perché? Cielo. Allora, eh? Potrebbe avere ragione da Cielo. Suo Anche idolo. Rashi dice questo, sì, certo. Una spiegazione la dà il Chida. Chida è un Rav di origine di Yerushalayim che ha vissuto molto in Italia, a Livorno, Rabbi Chaim Yosef David Azolai, nel 700. Lui spiega in una delle sue opere, lui è autore di moltissime opere, una delle sue opere si chiama Rosh Yosef, e lui scrive che Yitro voleva già arrivare subito dopo il discorso, l'evento del Mar Rosso. Una volta è successo quello, lui ha detto che okay, io vado, mi unisco a loro. Però aveva un timore, forse non mi accetteranno. Forse non è così semplice che accettano uno che è stato idolatra, ha provato tutte le idolatrie del mondo. Consigliere del faraone. Sì, sì, è vero che era suocero di Mosè, però Mosè forse non era uno che prendeva tangenti. Andava secondo la regola, non secondo la conoscenza. No? L'opportunità. Allora, aveva questo dubbio. Ma dopo che Itro ha sentito anche della guerra di Amalek, dopo che è avvenuta anche la guerra di Amalek, allora ha detto, forse Am Israele adesso è pronto ad accettare anche uno come me. Perché? Questo odio che aveva Amalek per Am Israele, che era un odio così forte che anche dopo aver visto tutto ciò che era successo al faraone erano pronti a venire ad attaccare Israele, era una cosa non di oggi e non di ieri, una cosa di qualche generazione. Amalek era il figlio di Elifaz, era il nome del padre, e la madre si chiamava Timna. Chi era Timna? Timna era una figlia di importanti e aristocratiche famiglie di Seir che voleva unirsi alla famiglia dei nostri avi. Ma visto che non veniva dalla famiglia giusta, diciamo così, era stata allontanata. Hanno detto no. Ma lei voleva comunque, almeno quanto fosse possibile, e quindi divenne la concubina, Pilegesh, di chi? Di Elifaz, il figlio di Esav, che lui era pronto ad accettarla. Da questa unione tra Elifaz, che è il figlio di Esaù, e Timna, questa signora, nasce una persona che si chiama Amalek. Ok? Che è una parola ebraica o aramaica? È una parola, è un nome, Sì, ho capito. non è aramaico. Amalek è cresciuto con questo sentimento della madre, soprattutto di Di odio. odio, di rancore per ciò che gli era stato fatto. E quindi questo gli bastava, era un odio che si portava dentro da tanti, tanti anni e ha trasmesso a tutto diciamo, la tribù di Amalek che è fuoriuscita da lui. E quando Yitro ha sentito questo, ha detto: forse adesso Mosè e gli ebrei hanno capito che non bisogna allontanare le persone, che chi vuole unirsi va preso, va considerato, almeno va preso in considerazione. E Allora, quindi forse loro adesso quando che fanno io verrò, sarò accettato ti per fanno unirmi ad Am conversione Israele. Eh? allora. Quando uno si converte allora vuol dire che va accettato la conversione. Certo, assolutamente. Infatti lo dice la Gemara, i maestri dicono nel Tosefot, bisogna accettare le richieste di conversione se sono sincere, se le persone insistono che vogliono davvero. E il Tosfot, il commentatore della Gemara, dice che i nostri avi sono stati puniti per il fatto di non aver accettato Timna, quella donna che voleva unirsi alla famiglia dei nostri avi. Qual era la punizione? Che ne è uscito fuori Amalek da quella signora. Allora il maestro Chida, come dicevo, offre questa spiegazione. Yitro, vedendo la guerra di Amalek, ha detto: ora hanno capito che dovranno accettare anche uno come me, e allora a quel punto è venuto. Non bastava il discorso del mare, per lui sarebbe bastato. Ma per loro, ha detto, forse per loro adesso che hanno fatto questo, che è successo questo, hanno capito che non è una buona linea, una buona politica da seguire. Che chi è sincero nel volersi unire va incluso. Ha capito che era il momento giusto. Esatto. In un'altra prospettiva c'è un commento hasidico del Rebbe di Kotsk su questo tema. Dice così. Quando Yitro ha sentito la storia del mare, chiaramente era rimasto a bocca aperta, come tutti quanti, però ha detto: ok, però posso seguire Dio anche da Midian, posso essere un servo di Hashem, non è che devo essere in una località specifica o con un gruppo specifico di persone, posso servirlo anche da qui. Ma quando ha sentito della guerra di Amalek, allora non poteva darsi più pace. Perché ha detto: com'è possibile che una persona può andare in guerra, attaccare un popolo che ha visto talmente tanti miracoli, talmente tante meraviglie e l'apertura del mare? Yitro ha detto: com'è possibile mettersi contro delle situazioni così solo se non hai un maestro, se non hai una guida? Se credi di essere tu il più intelligente, allora anche se tutta la logica ti va contro, se tu ti sei messo in testa qualcosa e non senti una guida, non senti una indicazione da qualcuno più intelligente o che ha più esperienza di te, un maestro, allora puoi fare i più grandi sbagli del mondo, i grandi errori possibili. Allora ha detto: no. Quando ha visto questa guerra di Amalek, non aveva senso quello che ha fatto Amalek, ha detto: non posso stare a Midian, ho bisogno di unirmi al popolo così da poter essere guidato da Mosè, da poter essere guidato dal maestro. Non basta cercare di capire da solo, perché lì può finire male, ci possono essere grandissimi errori. Se manca il maestro, se manca il Chacham che guida, allora la persona rimane da lontano, può assistere ai più grandi miracoli e rimanere un problema. Rimanere nei propri limiti, nella propria miopia ed egoismo. Allora ha detto: ok, ora devo andare e trovarmi la guida di Mosè. Però nonostante queste due spiegazioni, aggiungiamo un'altra, che troviamo nelle opere del Rebbe. Ciò che è accaduto nel momento del dono della Torah è un evento che vuole essere il momento chiave nella storia dell'esistenza del mondo, in cui si crea la più grande meraviglia, più grande della mare, più grande della Malek, più grande delle piaghe, di tutti i miracoli, prima e dopo. Perché? La meraviglia dell'unione tra lo spirito e la materia, l'alto e il basso nel linguaggio della Kabbalah. Creare un rapporto tra il tavolo e il falegname che lo ha creato. In teoria diventano due cose separate. Dopo 2000 anni, cioè dopo la creazione del mondo e tutti i secoli che sono passati fino al momento del dono della Torah, in un certo senso il mondo era come se fosse indipendente dal suo creatore. Il concetto, l'idea che sta dietro il dono della Torah è un ponte, creare un rapporto, un legame tra il mondo materiale, fisico, e il mondo spirituale e sacro. Per esempio, facciamo un esempio per capire meglio di cosa stiamo parlando. Se per esempio, Yosef, tu abiti in quale via? Via Portuense. Via Portuense. Numero? 5. Numero 5. No. È un condominio? C'è un condominio? Sì. Ok, allora nel condominio di via Portuense numero 5 abita questo signore. Via Giovanni Angelini. Vabbè, che si chiama Yosef. Un giorno arriva un camion dei traslochi, un nuovo condomino. Chi è il nuovo condomino? Albert Einstein. Professor Einstein, lei è il nuovo vicino di casa. Ogni giorno il professor Einstein scende nel cortile condominiale, si mette sulla banchina e si fuma una sigaretta o si beve un caffè. E tu vorresti proprio andare lì a parlarci un attimino. Professore qui, professore lì. Ma cosa parli tu, Yosef, sei intelligente, ma cosa parli con Einstein? Lui sta in un altro mondo a livello intellettuale. E tu stai nel tuo mondo. Qualsiasi parola che tu gli dirai sembrerà... una sciocchezza. Sembrerà una sciocchezza. Ti senti molto in imbarazzo di andare lì a parlarci. Sì. Se questa può essere la distanza tra due che sono comunque entrambi esseri umani, entrambi limitati, entrambi esseri umani, quanto può essere la distanza tra un essere umano e un essere infinito, un essere divino, e Akadosh Baruch Hu? È difficile anche immaginarlo. Il dono della Torah vuole unire tra queste due realtà, quella nostra e quella divina. Fare qualcosa che sembra sia impossibile, impensabile fare. Il problema è che il mondo e noi di questo mondo non necessariamente siamo pronti a questa svolta, a creare questo legame. E il popolo ebraico non necessariamente ci credeva che sia possibile questo tipo di legame, di iniziare un nuovo tipo di esistenza, di vita. Le persone che sono uscite dall'Egitto, i nostri avi, gli ebrei che sono usciti dall'Egitto, non erano mica tutti santoni. Se noi leggiamo un po' la storia, stiamo parlando di prevalentemente un gruppo di persone che erano stati schiavi per tanto tempo, che avevano poca cultura, e quella poca cultura che avevano non era la loro, era una cultura estranea, una cultura egizia. Erano un gruppo distinto per etnia, per origine, ma era molto difficile distinguere tra loro e le altre persone che gli stavano intorno. E quindi, cosa possiamo aspettare da loro? Il Midrash dice, questi sono Ovdei Avodah Zarah e questi sono Ovdei Avodah Zarah. Il Midrash dice, scusa, perché loro meritano questo e loro, gli egiziani... fanno le stesse cose. Che differenza c'è? Chi dice che erano interessati a ricevere la Torah? A capire cosa vuol dire ricevere la Torah? È vero, hanno visto grandi miracoli, le piaghe, eccetera, eccetera. Ma se leggiamo la storia, non necessariamente erano convinti da queste cose. Perché? Tutti quelli che hanno lottato contro di loro sono morti. Gli egiziani che lottavano contro di loro sono morti. Amalek sono stati sconfitti. Ma nessuno è cambiato dal male al bene. Sono rimasti quello che sono. Di conseguenza, perché Qual è il precedente per pensare che sia possibile cambiare, che noi siamo così e forse domani saremo differenti dentro? Sembra una cosa impossibile, quasi impensabile, non considerata. La guerra di Amalek ha confermato questo pensiero. Ecco, vedi, dopo tutto quello che abbiamo passato, ancora vengono con l'odio e con la guerra per attaccarci. Le persone non cambiano, il mondo non cambia, tutto rimane uguale. E allora a cosa serve tutto ciò? A quel punto è arrivato Yitro. E Yitro è il primo della storia che si è cambiato. Primo Baal Teshuvah, forse possiamo dire. Il primo che ha fatto Teshuvah. Che prima era in una maniera e poi è diventato un'altra maniera. E lui è venuto al popolo ebraico e ha detto loro, forse non con la parola ma con la presenza stessa, ha detto loro: le persone possono diventare diverse da quelle che pensano di essere. Possono trovare in sé un altro modo di essere rispetto a quello che lo erano fino a ieri o fino a stamattina. E con la sua stessa presenza lui ha detto: la Torah è rilevante ed è più forte di qualsiasi altra cosa, perché ti può cambiare. Guardate me, ha cambiato tante volte finché è arrivato alla verità, non ha rinunciato. E io vi dico, conosco tutte le altre cose, vi dico: questa è la cosa vera. Ma soprattutto, più di questo messaggio, il messaggio che dicevo prima, è possibile cambiarsi, è possibile fare teshuva, è possibile diventare migliore di quello che si è. Ecco perché Yitro è venuto dopo la guerra di Amalek. Dopo solamente la spaccata del mare non era sufficiente per farlo venire. Perché? Perché sì, era il grande evento che forse per natura Yitro avrebbe detto: ok, adesso vado. Ma dopo la guerra di Amalek ha detto: ora c'è bisogno di me. Ora devo dare una mano. Ora devo appunto dimostrare, dare la forza, che è possibile sollevarsi da questa, diciamo così, sconfitta morale causata dalla guerra di Amalek. Sì, non era una sconfitta militare, noi li abbiamo sconfitti a livello militare, ma a livello morale forse noi siamo stati quelli che sono stati sconfitti. Abbiamo detto: basta, non c'è speranza, il mondo rimane così. È venuto Yitro e ha detto: guardate me, non è vero che non c'è speranza. Perché ho fatto questo, proprio stare. Esattamente. È stato un esempio. Questo vuol dire il senso dell'idea, quando parliamo, secondo l'opinione che abbiamo citato della Gemara, che la Torah non è stata data finché non è venuto Yitro. Per dire, la venuta di Yitro fa parte di spianare la strada per appunto poter essere presenti, per poter avere il dono della Torah. Essere predisposti correttamente. Esattamente, essere predisposti correttamente. L'apertura del mare era l'inizio di questa idea del legame tra lo spirito e la materia. Ciò che normalmente è nascosto si rivela, no? L'apertura del mare rappresenta questo. La guerra di Amalek indica che ancora non ci siamo arrivati. Allora Yitro arriva e aiuta a creare questo legame, ad evidenziarlo. Poi consiglia anche a Mosè di delegare determinate persone. Sì, sì, sì, questo sì. Però questo si lega alla prima parte delle Aseret Diberot, dove dice: Anochi Hashem Elokecha, io sono il Signore tuo Dio. Credo che le prime due... Asher otzeticha meretz Mitzrayim. Cosa dice? Che io ti ho tratto fuori dall'Egitto. Molti maestri chiedono, in particolare i commentatori come Ibn Ezra, perché non dice: io sono il Signore tuo Dio che ho creato il cielo e la terra? Molto più bello da mettere sul biglietto da visita. Dice: non solo ti ho tratto fuori dall'Egitto, ma addirittura ho creato tutto l'universo, immagina. No, invece mette solo l'uscita dall'Egitto. Perché? come se un padre dicesse al figlio: tu mi devi portare rispetto perché una volta ti ho salvato da un problema. È ridicolo. Mi devi portare rispetto perché sono tuo padre, ti ho portato a questo mondo, ti ho dato tutto, ti ho cresciuto. Allora il Rebbe spiega in una sua lettera scritta: il messaggio che si vuole trasmettere attraverso l'affermare che io sono Kadosh Baruch Hu, che ti ho tratto fuori dall'Egitto, è più forte di quello che si sarebbe trasmesso attraverso il messaggio che io ho creato il cielo e la terra. Perché? Perché ti ho fatto nascere come popolo. Cosa vuol dire? Vuol dire, quando dice io sono il creatore, vuol dire posso creare qualcosa che prima non c'era, fare una cosa nuova. Quando dice io ti ho portato fuori dall'Egitto, sta dicendo io non solo posso fare una cosa nuova, ma posso cambiare una cosa già esistente e farla diventare come nuova. Pensavi di essere così? Oh, pensavi di essere schiavo? No, sei libero. Pensavi di essere servire il faraone? No, devi servire il Signore. Quello che credevi di essere, ti ho trasformato in un'altra. Ti ho trasformato. E per ciò che riguarda il dono della Torah, questo è molto più importante di parlare dell'esodo, della creazione. Da un semplice egiziano sei trasformato in un servo di Kadosh Baruch Hu. Che questo è molto più potente, ed è questo effettivamente lo stesso messaggio che si trasmetteva con l'arrivo di Itro. Itro diceva: è arrivato a Malek, sei diventato depresso da questa cosa? No, signori, guardate me. E qui possiamo capire un po' meglio perché la parashah si chiama Itro, non si chiama il dono della Torah o lo Shabbat di Matan Torah, perché il dono della Torah si basa anche, possiamo dire, su questo atteggiamento, il realizzare nella nostra mente, nella nostra prospettiva, questo concetto qui, la possibilità di cambiamento. Quello che noi spesso sentiamo è più forte di me, sono fatto così, non è definitivo. Bisogna cambiare prospettiva. Sali, esci fuori da questa mentalità, e vedrai che riesci a fare anche quello che fino a ieri pensavi è più forte di me, o fino a ieri pensavi sono fatto così. Sei fatto così, ma sei fatto anche così se sei pronto ad aprirti a quella possibilità. E questo lo dobbiamo al messaggio di Yitro. Todarabah.